Los Santos chapter 12. Yeah, that's the problem.

Thank you.

No, ma non c'è che se ti noi, oh, qui, stiamo lavorando. Ho casa, ho la casa, è un sacco di papà di noi, ho visto la lavorare, ho visto, thank you.

Yeah, good.

Thank you.